giovedì. Io tu Fracchia e Martin Luther King, the King, à la gare de si, ma que d'où? Philosophia, se lo prende in culo da mia zia, su via, cosa vuoi che sia? Anna Frank, l'espirito.